Allora, il progetto You Aid Volunteers in Action è un progetto che ha avuto una durata di 2 anni e si chiude proprio in questi giorni. È un progetto finanziato dall'Unione Europea all'interno dell'iniziativa You Aid Volunteers. L'obiettivo principale, la componente principale di questo progetto è la selezione e l'invio di giovani o meno giovani professionisti che hanno voglia di fare un'esperienza di volontariato all'interno del mondo degli aiuti umanitari fuori dall'Europa. È un'iniziativa che si rivolge esclusivamente a cittadini europei che vengono inviati soprattutto nei nostri uffici locali in giro per il mondo o negli uffici di organizzazioni certificate con cui stringiamo dei patti di collaborazione. All'interno di questo progetto noi abbiamo inviato in giro per il mondo più di 40 volontari in una quindicina di paesi, non so, in Palestina, in Bolivia, in Nicaragua, ad Haiti, in Giordania, insomma, in tutti i posti in cui noi facciamo cooperazione e aiuti umanitari. Questo progetto ha anche una consistente componente di formazione nei confronti delle organizzazioni extraeuropee, quindi l'obiettivo è creare giovani professionisti nell'ambito degli aiuti umanitari e potenziare la capacità delle organizzazioni di accoglienza di avere un impatto e quindi delle conseguenze positive sui loro beneficiari. Proprio qualche giorno fa, il 25, abbiamo avuto la conferenza finale di questo progetto in Tunisia, a Tunisi per dare visibilità anche a uno dei nostri uffici locali e abbiamo avuto la possibilità di invitare decine e decine di volontari già ritornati dopo le loro esperienze e tirare le fila. Devo dire che anche sui media tunisini abbiamo avuto un consistente impatto, ecco. E nell'ambito della sensibilizzazione e della diffusione di questo progetto siete riusciti a coinvolgere anche un gruppo di artisti come il Terzo Segreto di Satira. Cosa ci puoi dire di loro? È vero, li abbiamo incontrati un po' per caso, nel senso che abbiamo aperto una gara, loro hanno partecipato, hanno vinto questa gara e c'è stata subito questa connessione, questa comunione di intenti. Loro si occupano principalmente di satira politica, per cui riportarli sui binari dell'Unione Europea ha significato uno sforzo da parte nostra e da parte loro. Devo dire che sono stati immediatamente solidali, hanno compreso i nostri obiettivi e si sono immediatamente sentiti parte del progetto. Accompagnati da Marina, la nostra Communication Focal Point, sono andati sia in Libano che in Tunisia. Hanno conosciuto il lavoro di GVC in quei paesi e hanno seguito i nostri volontari non solo in ufficio, ma sul campo, sul terreno, nei loro rapporti con i beneficiari, perché non bisogna dimenticarsi che spesso i volontari sono le persone che più di ogni altro hanno il contatto diretto e immediato con le comunità di beneficiari. Ne è venuta fuori una webserie in 5 puntate girata tra Libano e Nicaragua. In queste 5 puntate è possibile vedere e capire, in un momento poi così difficile per le ONG in Italia, qual è il nostro lavoro, qual è l'attenzione che noi dedichiamo al lavoro dei nostri volontari, del nostro staff e qual è la nostra prossimità con i beneficiari, che è una delle chiavi del nostro successo. Loro hanno un loro stile fantastico, molto divertente, hanno viaggiato assieme al loro attore feticcio, Marco Ripoldi, che ha anche voluto creare dei momenti di divertimento nelle nostre comunità di beneficiari, ha fatto anche degli spettacoli da clown per i bambini delle scuole in cui lavoriamo, per cui ecco c'è stata immediatamente una grande sintonia. Io credo che siano riusciti con un po' di ironia a raccontare esattamente qual è lo spirito del nostro lavoro in questi due paesi, Libano e Nicaragua. Io ti ringrazio molto e in conclusione ti volevo chiedere cosa può fare un ragazzo o una ragazza che voglia partecipare a questa bellissima iniziativa. Allora, sì, effettivamente questo progetto si chiude fra qualche giorno, ma noi ne abbiamo tanti altri aperti. Proprio qualche giorno fa abbiamo chiuso le prime 20 posizioni in tutti i nostri paesi, ma nel giro di poche settimane ne apriremo altrettante, quindi pianifichiamo di aprire ancora posizioni in Mozambico, in Burkina Faso, Palestina e in tantissimi altri paesi, per cui è possibile, suggerisco anzi, di seguire i social network di GVC e visitare il nostro sito, che poi rimanderà alla piattaforma ufficiale dell'Unione Europea su cui si potranno vedere tutte le posizioni aperte. Altrimenti potete scriverci una mail alla mail che trovate nella sezione Lavora con noi sul sito di GVC e chiederci informazioni.